lei alla domanda precisa, lei ha fatto sesso, è stata con Silvio Berlusconi? Lei ha sempre risposto di no. Insomma, risposto no. Allora, se avesse davvero detto davanti a un giudice, davanti a un magistrato, davanti a un poliziotto, una cosa completamente diversa, la cosa sarebbe uscita fuori. Insomma, appunto, no? Sarebbe uscita prima, sarebbe uscita subito, questo è importante, quindi vuol dire che non è vero. Altrimenti ci sarebbe stato scritto in questi verbali che ho avuto rapporti sessuali col premier. Non è venuto fuori, non è vero. Io ho sempre detto che non era vero, quindi. Che volevi dire, Luca? Strumentalizzazione, basta. No, l'unica cosa su cui, cioè, non credo che in questo momento questa vicenda possa cambiare qualcosa nell'immaginario collettivo. Anzi, posso dire una cosa, lo dico per paradosso, cioè paradossalmente è quasi dannoso il fatto che non abbia fatto sesso. Perché? Berlusconi, perché il suo mito è quello del satiro che non si stanca, che non conosce defaillance, quindi il fatto che tutto sommato sia stato a parlare amenamente è quasi un danno alla sua immagine. Terry, ma ci fu del sesso quella notte che tu hai visto? Adesso ti faccio una domanda un po'... No, che abbia visto no, io poi sono andata nella stanza, non mi sentivo bene, poi quello che è accaduto, quello che è successo, no. Senti, abbastanza curioso invece, magari sarà anche uscito, non me ne sono accorto, il fatto che comunque siete state costrette tu ed altre ragazze a uscire alle 11 di mattina e più tardi perché c'erano dei giornalisti, un appuntamento importante, com'è questo episodio? No, questo è stato divertente, sì, perché è sbagliato anche l'orario in cui sono uscita dal palazzo, era più tardi. Comunque sì, è vero, era pieno di giornalisti, soprattutto di fotografi, quindi... Perché c'era una conferenza stampa, un appuntamento del premier, dunque non potevate uscire. Esattamente di cosa si trattasse, sì, però sì, è stata dura uscire, sì.